L, si compra una, se la queda nueva, no me lo digas de ahí que tú hay algo. Ui Billy, su che andiamo. Beh, Brigido. E che è questo quarto sparato? Puffi. Oh, biondo. E beh, fiocco di neve. Ehi, e beh. E sì, che non ti ho riconosciuto. A paventi, vecchia. Su che andiamo. Su, su che andiamo, su. Ah, io Brigido, dai, non fare lo gnurri. Ebbene, Natale. Ebbene, biondo. Ma sono tutto pimpante, sì. E oggi sì. Io proprio me ne devo andare a lavorare stasera, per carità. Che vita, cazzo. E guadagnare, cazzo, 4.000 euro al mese. Ma di chi ti si attaccano alla bobida? Compresa la. Peggio per te che ti hai pigliato il vizio che mi avevo preso io di andare a lavorare, cazzo. È un brutto vizio, Natale, è un brutto vizio. È brutto sì come vizio. Per carità. Cazzo, è un cazzo che si vuole, cazzo, per carità. E a me lo dici. Stamattina ero fuori lo stesso che sono andato al Palazzo Rosa, lì era un cazzo. Non so, sono andato ieri a Alghero a fare questa visita, un attacco. Cazzo, vedo un caio, di pomeriggio, 38 gradi c'era a Natale, sono entrato che respirare, cazzo, mi dovevo morire un cappotto. Cazzo, a Roma, cazzo, è entrato usando e ne dici di malato, cazzo. Che cazzo sono fuori di te, troppo, cazzo, troppo alto quel condizionatore. Cazzo, minimo, bisogna mettere 18 gradi. Che mangiare la matrice cosa era? A chi fuori aveva gaggio? E Trento cazzo era freddo. Era la Siberia si mangiano in coso, in un Palazzo Rosa. Lì è peggio lo stesso. È peggio. Cazzo, se vanno ad aprire i chiesinini, lì a concurreare, a Busia. E ha detto, ma vanno bene, sì, ho guardato, sta a posto. Cazzo, andate a piazzare, cazzo, ma non vanno bene, ma la bagaccia a Duglia, mi ha fatto caricare i chiesinini, a bu, a volte ora si vede un bucare da rito. E su che da procedura, cazzo. Se li rinnovino, solo che queste erano tre poste, la macchina. Gli ho detto, ma sicuro sì che vanno bene queste sedili. Cazzo, nuovi, insomma. Sì, vanno bene, non ti preoccupare. Cazzo, mi già mazzura, ma non è cazzo, non vanno bene perché tu c'hai gli alberghi davanti nella macchina e invece nell'altra macchina non ce li aveva. E quindi non vanno bene, cazzo, a base di uscire, dopo la troncoleare a portare i seriri. E intanto non si trova niente in chibi, ho ciambato un danno. No, sono lì, però entra alle 10:30 io adesso come mi porta la macchina, la porto adesso i seriri, cazzo devo che di notte a buttare la macchina. E infatti, hai ragione. Oh signor! Ma tu avanti lo cambiotto, vai lo condizionatore, cazzo, pigli 4.000 euro, bubu. Lascia perdere che l'altro giorno, cazzo, c'erano minimo 38 gradi dentro quel cambiotto. Vi ho detto, il giorno che mi sento male, chiamo l'ambulanza, sono cazzi vostri. E sono cazzi del DGA, che da voi ci viene l'ambulanza, succede casino, eh. Allora li controllano i vei a vedere. Il ispettoratore lavora. Comunque c'è un amico che tu conosci sicuramente, Manuel. Ciao! Biondo! Un amico, cazzo, mi stupisco che non l'abbia riconosciuto, cazzo. Ma lo conosco io. Io dico di sì. Un attimo, Natali. Ok, io già sono qui, già non scappo. Oh, biondo! Sentoni, canale 10, K8. Antonio, bombolino. sono un capo.